se volete la verità. Andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Astronzi, dove state? Che fate? Dannate. I pulled into Nazareth, was feeling about half past dead. I just need some place where I can lay my head. Hey, mister, can you tell me where a man might find a bed? He just grinned and shook my hand. No was all he said. Posso dirvi una cosa semplicissima? Quelle navi battono varie bandiere di vari paesi europei. È possibile non comprendere che c'è qualcosa che non funziona. I picked up my bag, I went looking for a place to hide. Ti avevamo proposto che tutte le ONG senza bilanci esibiti e trasparenti non potessero più attraccare nei nostri porti. Sono stato chiamato razzista. Il destino dell'Europa nei prossimi 20 anni si gioca in Africa. L'Africa è e sarà sempre di più lo specchio dell'Europa. Non vorrei che qualcuno pensasse che è soltanto lo specchio dell'Italia. Renzi ha guidato il semestre europeo e in quei 6 mesi l'Italia non ha fatto nulla per affrontare l'emergenza dell'immigrazione. Per me, per alcuni partiti politici, chiaramente molto più in ambito locale, non sto parlando di Renzi e Gentiloni, l'immigrazione clandestina è stata una nuova forma di finanziamento pubblico ai partiti. Ritengo che tutte le politiche che ha fatto Renzi, anche e soprattutto in materia finanziaria, siano state dettate dalla stessa Europa. Quindi credo che questi politici in Europa non abbiano minimamente la possibilità di intervenire. Il tempo delle parole purtroppo si è consumato. Mi sa che invece di parole ne sentiremo così al vento, e diverse. Ieri se ne sono sentite, per esempio, nell'Unione Europea. Tutti solidali a parole. Angela Merkel, siamo solidali con l'Italia. Macron. Buongiorno. Sono parole. Chiacchiere. È così. È così, caro Vincenzino. È così. Sono chiacchiere. Macron invece ha iniziato a fare il distinguo. Ha detto. Ma questo di che sta parlando? Ha detto di che sta parlando, di questo tema immigrazione. Ha detto sì, solidarietà, ma non per i migranti economici. Sto dicendo cose gravi, pesanti. Sono abbastanza gravi queste. Non ha detto questa premessa, caro Vincenzo, ma questo è. Perché sì, certo, i migranti, ma non quelli economici. Ora, L'80% di quelli che arrivano in Italia sono migranti economici. E questo vuol dire per Macron a Ventimiglia frontiere chiuse. E alle chiacchiere, chiacchiere, chiacchiere. Poi ci sono i fatti. A Malta abbiamo dato un rimorchiatore, l'abbiamo regalato noi per la grande solidarietà. E sapete come racconta oggi la stampa a cosa serve questo rimorchiatore ai maltesi? A portare i migranti in Italia. Capito? Pure proprio con le nostre navi, le navi che gli abbiamo regalato. Chiacchiere, sapete l'ultima chiacchiera qual è stata? Quella di chiudere i porti internazionali. cioè i porti italiani alle navi. Ora si scopre che le leggi internazionali vietano di chiudere i porti. E quindi... chiacchiere. Ecco, sì, non so se anche la Merkel si sarà espressa così. Comunque... a Monaco di Baviera, da dove ci sta ascoltando Alberto, ci sono 13 gradi. Mentre a Perth, la nostra Chiara ci informa che ci sono 18 gradi. Potremmo farla tutta dall'estero, questo spazio. A Collegno, 15 gradi. Lorenzo controlla. No, lo scrive l'ascoltatore. Lorenzo controlla. È straordinario. 15 gradi, Collegno. Lorenzo controlla. Collegno, grazie. Torino, bravo. Con l'ascoltatore che te lo dice, Mica io. A Tremalzo, ecco, me lo sono perso, ma credo 9 gradi, credo di aver capito. Tremalzo, Lorenzo, Tremalzo. A Perugia 17 gradi, a Padova 17 gradi e sereno. A Camisano Vicentino, voglio intuire in provincia di Vicenza, 17 gradi. Grazie Sergio. Finalmente allora... la mitica Costa Magna, Costa Magni Fallineri. Ma Costa Magna Fallineri, non lo so. Luisella, buongiorno. Buongiorno, pensare che sono così moderata. Ma infatti, guarda, infatti. Sei così, così dolce, tenera. Esatto. Ma infatti, ti abbiamo chiamato l'uomo che più ami per iniziare questi venerdì, questi lunghi weekend in sintonia, il tuo senatore preferito. Caramba, Esposito! Esposito, lo annunci direttamente. Buongiorno. Come che stai? Bello. Come stai? Dove sei? A casa con Virginia, ovviamente. A casa con Virginia, lei dorme per sua fortuna. Ah, sì, Virginia, ricordiamo. Che fa a Collegno 15, sì. Qui casa mia, pochi chilometri, sono 14. 14 gradi. Avete perso? C'è un'aria frizzantina. Esatto. Va bene, l'aria frizzantina. E allora, signori, parliamo subito, dopo l'apertura del Parlamento, dai, di questa storia dei migranti. Ragazzi, tanto tutti qua hanno le soluzioni. A chiacchiere. Chiudiamo i porti, facciamo i blocchi navali, mandiamoli di qui, mandiamoli di là. Ma in realtà sono chiacchiere, per l'appunto, cara Luisella, chiacchiere, e ne sentiremo ancora, e non, e la soluzione non c'è, questa no, è la verità. No, è dato sicuramente le chiacchiere dell'Europa, cioè l'Italia eroica, una mano ci dovrebbe dare. Sì, esatto, l'Italia eroica, bella questa, l'Italia eroica. Sì, ma no, Juncker, no, l'Italia. Sì, sì, ma batte. Dopodiché ci hanno dato un sacco di soldi, che non so se abbiamo usato tutti per i migranti, magari per qualche mancia elettorale, per il referendum li abbiamo usati pure. Dopodiché, non lo so, io spero che siano chiacchiere anche questa chiusura dei porti. Ma tanto non si può fare. Ma non si può fare. No, perché è una follia, è una cosa vergognosa. Io questa campagna contro le organizzazioni non governative, da Zuccaro in poi, che dove è sparito l'unico PM che dice accusa senza avere nessuna prova, questo è il dato che abbiamo scoperto qualche mese fa, sì. La trovo vergognosa, perché comunque bisogna riconoscere anche il lavoro incredibile che fanno le organizzazioni non governative. Cosa facciamo? Impediamo di attraccare? No, infatti non bisognerebbe impedire, cioè non bisognerebbe chiudere i porti, ma come si è detto tante volte bisognerebbe aprirne altri. Non si capisce perché non possano essere portati in Tunisia, come abbiamo detto ieri, non Spagna, si capisce, esatto, in Spagna, in Grecia, a Malta. Dopodiché diciamo però anche le cose come stanno: la Spagna è feroce con l'immigrazione, ricordiamo tutti i gommoni che vengono presi di mira quando, per non farli sbarcare a Gibilterra, dopodiché la Spagna investe sull'integrazione, cioè chi arriva sul territorio spagnolo viene finanziato molto di più che in Italia, quindi c'è una gestione dell'immigrazione molto più ma guarda perché dovrebbe essere così, cioè nel momento in cui entri e hai diritto e ti accolgo veramente, ma no il buonismo, perché il nostro problema è il buonismo, è il buonismo. Ma non so se siamo così buoni. Perché poi ci mangiamo mafia capitale, le cooperative, gli immigrati tenuti in condizioni disumane, cosa sono? Sono quello che c'è sul nostro territorio. Quelli sono siamo reati. Molto buonisti. Quelli sono reati. Facciamo grandi affari, convengono più della droga. Io credo che sia però di fondo. Però abbiamo un esponente politico che ci può aiutare. Meglio di Esposito. Ma adesso non fare così, se no giustamente si arrabbia. Io temo che ci sia del buonismo di fondo, del buonismo cattolico di fondo. L'ho detta Esposito, per cui non si può avere la mano dura. Dura ma severa ma giusta, non dura perché è cattiva, severa ma giusta, o no Esposito? Di sicuro noi abbiamo una cultura cattolica, ma un'organizzazione anche di volontariato, un associazionismo che è meno male che c'è, se posso dire. Che naturalmente su questo come altre situazioni, permettetemi, detta la linea. Però questo buonismo, Milan, io credo che non ci sia più tra i cittadini italiani. Io sono molto colpito dalle reazioni anche di pezzi di paese, di persone che su questo tema hanno sempre avuto una grandissima tolleranza. Cioè la pazienza è veramente finita. Ma d'altronde, ragazzi, quando uno vede che è tutto incontrollato e che è tutto gestito così. Poi se andiamo a guardare i numeri assoluti, non è che questo paese abbia i milioni di migranti, però ormai io lo percepisco, me ne rendo conto. Tutti i giorni tu incontri qualcuno che ti dice basta con questa invasione. Io continuo a pensare che non siamo di fronte a un'invasione. In termini numerici, però è evidente che, francamente lo dico, Juncker, Macron hanno proprio ieri ci hanno di nuovo preso per il culo. Francamente, sì, però ieri ci hanno di nuovo preso per il culo. Io non credo che il governo italiano possa tollerare ulteriormente questo tipo di atteggiamento. E se è vero come è vero che le leggi internazionali non ci permettono di fare esattamente quello che anche Minniti ha fatto trapelare della chiusura dei porti, però ad un certo punto dovremo fare qualcosa che l'Italia non ha mai fatto, cioè quello di violare qualche regola internazionale per dare un segnale, perché adesso siamo all'azione diplomatica, però la risposta è qualche pacca sulla spalla e magari la promessa di qualche altro di altri soldi, francamente così non la risolviamo la morte del cuore, perché poi io continuo a pensare che intorno a questi poveri cristi che arrivano sui barconi non bisognerebbe farci campagna elettorale, non bisognerebbe farci affari. No, non bisognerebbe, però onestamente un po' di campagna elettorale c'è stata anche in questi giorni, perché Minniti, che ha avuto una svolta così, insomma, qualcuno dice, non so Luisella, ma qualcuno dice che siccome anche le ultime amministrative si sono giocate sul tema un po' della sicurezza, e allora ecco subito il segnale. Ma c'è il referendum, è andato così, guardate che anche il referendum ma ho capito, cioè la politica che insegue un po' gli umori del popolo ma infatti la politica dovrebbe essere un'avanguardia culturale, invece vediamo il PD che insegue tristemente la lettera, l'abbiamo visto alla prova dei fatti. Però l'avanguardia culturale, tu hai studiato la storia delle dottrine politiche, però questo dovrebbe essere, cosa vuol dire inseguire la pancia? Secondo me si insegue qualcosa di più in basso della pancia, su questi temi, ma abbiamo visto, al di là dell'imbarazzo della legittima difesa sui temi della sicurezza, inseguire la Lega, ma anche il decreto Minniti col DASPO per i centri storici, per cui che indecoroso e bisogna stabilire e giudicare chi è indecoroso, ma ovviamente il pensiero corre clochare i migranti, può essere allontanato dai centri. Insomma, di la verità, dai, capito? Dillo, per te Minniti è di destra, c'ha la maschera del PD, ma è di destra. Ma buona parte del Partito Democratico ha dimostrato di esserlo. Cioè anche Esposito. Esposito. Il Renziano sia stato un governo il centrodestra. Non l'avevi ancora citato, sono passati 12 minuti, 13 minuti, non l'avevi ancora citato. Non l'aveva citato Renzi, ma è un record, record mondiale. Mi è stato chiesto. No, ma io registravo semplicemente. Risponde invece di attaccarti alla forma, dare i contenuti perché è più importante. Il contenuto è che siete un po' di destra, Esposito, siete un po' le politiche sono un po' di destra. Tappo, alla sicurezza, l'articolo 18, vogliamo parlare oppure depenalizzato lo stalking, sono politiche di destra. No, questa è una balla, ti prego. Oggi il Fatto Quotidiano titola così: depenalizzato lo stalking. È una balla colossale già smentita non solo dai fatti, ma addirittura il povero Orlando è intervenuto per spiegare nel dettaglio ieri che è tutta una palla. Cioè, il ministro della giustizia ha smentito questa cosa. Guarda, ho finito stanotte all'una con una signora che mi ha scritto credo 20 messaggi su Facebook. Avete depenalizzato lo stalking così. Una palla, questa è una balla, punto. No, ma lo dico solo perché altri reati, diciamo. Poi parliamo d'altro. Sullo stalking si arrabbia, una cosa seria. Questa signora era una delle responsabili di Telefono Rosa qui di Torino, lo voglio dire, è una balla. Oggi il titolo d'apertura del Fatto Quotidiano, lo vedremo in rassegna stampa, però dai, non anticipiamo. Adesso dobbiamo dare un attimo al traffico, poi vi faccio sentire una Boldrini epocale, ma chi ha combinato la Boldrini tra poco? E vai col traffico! Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta. Se una nave irlandese ONG naviga nel Mar Mediterraneo e non può portarli in Irlanda, cosa cavolo ci fa nel Mediterraneo? E le navi tedesche vorrà dire che se le ormeggiano sotto la porta di Brandeburgo. Se non hanno il mare, non le mettono le navi in mare. Punto. Ma voi giornalisti schierati, ancora non credete che le ONG ci mangino sopra i migranti? Allora, colleghi e colleghe, vorrei anche inviare un saluto. Un saluto molto sentito a Celeste Costantino, la nostra collega che ha fatto una bambina che si chiama Bianca e che sta bene. Un saluto a mamma e bimba. Il papà? Come dice? Il papà? Il papà non è parte in causa in questo caso. No! Ma come? Allora... Ma come? Scusate, la bambina è stata fatta da Celeste Costantino, è nostra collega, noi ci rivolgiamo a lei. Essenzialmente a lei. Essenzialmente. È il papà! Povero papà! E lui non ha fatto una minchia, effettivamente, cioè in sala parto avrà al massimo tenuto la mano e incoraggiato la mamma, va bene, però. Povero papà! Boldrini, hai cancellato un papà e non ha fatto niente. Luisella, tu da donna, insomma, non ha proprio... cioè noi uomini non contiamo proprio nulla quando dimmi questa cosa, perché io non contiamo proprio niente. Nel fare un figlio. Dopodiché l'imbarazzo della Boldrini è per ben altro. Adesso cosa farà la Boldrini quando ci saranno le politiche? Vero enigma del paese, il paese sospeso in attesa di sapere cosa farà la Boldrini. Sarà domani con Pisapia. Questo sia un dramma esistenziale. Più persone a Roma che a Modena per Vasco Rossi, praticamente. Sì, esatto. No, questa sì è una domanda esistenziale. Però io vorrei restare sul punto. Tu, Stefano, cosa hai fatto per Virginia, a parte fargli la colazione tutti i venerdì? Niente, praticamente. Sei un essere inutile anche tu. Pago le rette. Paghi le rette, sì, ecco questo. Con i soldi nostri, ovviamente facciamo un po' di populismo. Intanto, con i soldi nostri, pagato come senatore. Casta con la K. No, cosa hai fatto per Virginia? Niente. Cioè, ero di passaggio. La mamma racconta solo. Sì, devo dire, adesso tra l'altro, Celeste Constantino è una collega della Camera che sta con me in commissione antimafia. Però a me ha colpito l'altra: ha fatto una bambina. No, ha partorito una bambina. È nata bianca, figlia. No, ha fatto una bambina. Mi ha colpito questa cosa. Non la sentivo dai tempi della nascita dei miei fratelli, da mia madre. Ha fatto una bambina. Lei si diceva: ho comprato una bambina. Anche ho comprato. Adesso vuol dire un'altra cosa. È un rewind della mia infanzia. Non lo sentivo da tantissimo. Ha fatto una bambina. Una bambina, trovo. Straordinaria. Vabbè. Invece, allora devo dire una cosa. Vabbè, diciamolo, dai Esposito, sei contento che il tuo sindaco è indagato? Tuo sindaco di Torino, anche se non è tuo perché è del Movimento 5 Stelle, l'Appendino? Assolutamente no, guarda, proprio ieri sera, dopo 24 ore di discussioni sul vero o presunto avviso di garanzia all'Appendino, ho fatto un tweet, quindi c'è la testimonianza. A me del fatto che l'Appendino sia indagata interessa veramente poco. E poi posso dirti, io sono orgoglioso di essere diverso di Maio, di Battista, Grillo. Fatto Quotidiano, l'avviso di garanzia, ragazzi, è uno strumento a tutela dell'indagato. Non me ne può fregar di meno, è chiaro. Il tema è la battaglia politica contro l'Appendino la faccio perché è incapace a governare. Non per le avvisi di garanzia. Cioè, io sono preoccupato che questa città abbia avuto quello che è successo in Piazza San Carlo il 3 giugno. Non mi interessa minimamente e non farò un commento. Ma noi siamo in questo tema. Siamo un po' italiani rissosi. Effettivamente, su questo io sono d'accordo con Esposito. Cioè, invece di metterci a tavolino e dire perché non accada più quello che è successo a San Carlo, dove è morta una persona, dove ci sono feriti. Cioè, questo bisognerebbe fare. Mettiamoci lì a capire che non succeda mai più una cosa del genere. No, invece è diventata la battaglia politica. Tutti adesso a denunciare. Ma io lo dico a cominciare da quelli del mio partito che un minuto dopo l'uscita della notizia Appendino indagata, che poi non so se è indagata per fatto dovuto, comunque chi se ne frega, hanno cominciato l'Appendino indagata. Cioè, ma noi siamo diversi culturalmente dal Movimento 5 Stelle e dobbiamo andarne orgogliosi su questo argomento. Vabbè, Luisella, comunque è anche il tuo sindaco, Torino. Certo, sono torinese. No, dico meno male che il senatore Esposito è diverso culturalmente dal Movimento 5 Stelle e dal Fatto Quotidiano. È un sollievo anche per quella parte di È un sollievo reciproco. Vedi, la cosa è reciproca. Cito Verdone. Sì. No, dopodiché, sull'accanimento, l'attacco che c'è stato, allora, i fatti di Piazza San Carlo sono oggettivamente vergognosi in un momento anche molto complicato, voglio dire, di attentati, per cui diciamo che è una cosa che credo sarebbe successa a qualunque sindaco di qualunque colore, anche ci fosse stato Fassino, in fondo le ordinanze erano le stesse. Dopodiché è stato un evento gravissimo, è un dato di fatto. C'è morta una donna, c'è un'altra persona a rischio di rimanere su una sedia a rotelle, cioè sono cose state cose drammatiche in generale. Sì, ma non si risolvono, cioè secondo me non si risolvono con le querele, non si risolvono con le denunce. Per cui ci sarebbe dovuto dovuto essere una totale solidarietà, un appoggio di tutto il paese nei confronti di una città, ma visto che è governata dal Movimento 5 Stelle non si aspettava altro che poter attaccare dopo la Raggi. Anche ma è sempre così, quando poi dopo, quando ci sono gli avvisi di garanzia, per gli amici sono tutela, per i nemici sono un atto d'accusa. Esposito, devo dire, in questo almeno ci dice, io voglio dire, non me ne frega niente. Non me ne frega niente, cioè dell'avviso di garanzia. Anche non, abbiamo la non abbiamo la controprova, purtroppo, ma io posso mettere per iscritto che se quella vicenda del 3 giugno ci fosse stata con Fassino sindaco, noi avremmo, ti posso fare l'elenco dei politici che avrebbero cominciato a fare fuoco e fiamme, e ti posso garantire che se il povero Fassino fosse stato sindaco e gli fosse capitata quella vicenda, sarebbe appeso a testa in giù dal suo adesso, lo posso garantire. Ma poi è una questione di ordine pubblico, cioè, quindi lì secondo me un sindaco mica si intende di ordine pubblico, collabora col questore, collabora col prefetto, ma è più una questione di polizia, cioè di ordine pubblico e di prefetto, quindi il Ministero dell'Interno. Sì, la differenza è che non c'è un controllo dell'informazione, non ci sarebbe stato, cioè ci sarebbe stato per Fassino ma non per l'Appendino, per cui invece sull'Appendino non è solo questione dei singoli che poi l'attaccano, è che c'è un controllo dell'informazione, per cui il titolo non si parla tanto, l'Appendino, stampa, televisione, vabbè, è politica. Io vi devo fermare, ma lo bevete un caffè insieme? No, non si sa, no, ma incontrati. Io personalmente, se capita, siccome no. Un garantista lo prendo un caffè con però Luisella ha subito detto no, subito le distanze vabbè, no, subito Luisella no, un caffè, vabbè, dai, vi devo salutare. Luisella Costamagna, senatore Stefano Esposito del Partito Democratico, salutiamo anche la piccola Virginia che oggi non si è svegliata nonostante lo sferragliare di colazione di Esposito, e allora alla prossima. OneExpress.it, Pallet Network italiano che viaggia in Europa, vi presenta. È arrivato Milana Lino, legge, commenta, spoglia, combattute piccanti. È arrivato Alino Milan, l'arrotino della comunicazione. 24 mattino. Le 7:21 minuti, siamo qui per la lettura dei giornali, lo spazio dedicato alla rassegna stampa di 24 mattino. Forza, andiamo in questo venerdì. È venerdì! Eccolo. Urliamolo là. Tutti insieme, Milan! È venerdì! Ma io l'ho urlato comunque. Venerdì 30 giugno per la precisione, intanto le aperture dei quotidiani, Il Sole 24 Ore, tagli al cuneo piano per 300.000 giovani, il governo vuole dimezzare al 15% i contributi per i neoassunti under 35. Questa è l'apertura, mentre il Corriere della Sera sceglie di aprire sulla questione del Cardinal Pell. Il caso Pell scuote il Vaticano, cardinale incriminato per abusi sessuali in Australia. Lui si difende dicendo falsità dagli anni 70. Mentre l'immigrazione è ancora il tema dominante per gli altri quotidiani. Gentiloni all'Unione Europea, non lasciateci soli, così apre Repubblica. Mentre il Messaggero, no di Macron, ultimatum dell'Italia. La Stampa, aiuti sui migranti o vincono i populisti. Queste sono le parole di Gentiloni. Per Libero, chiudete i porti e che sia finita. È il titolo di prima pagina. Il Giornale, altro che porte chiuse, dentro altri 5.000. Il Manifesto invece mette una foto dei responsabili dell'Unione Europea, cioè il vertice di Berlino con Macron, la Merkel, c'è anche Gentiloni, il titolo è Mare Vostrum, un po' il senso di scaricabarile da parte dell'Europa nei confronti dell'Italia. Queste alcune delle aperture, ne vedremo altre. Voglio però partire proprio dalla vicenda che coinvolge il Cardinal Pell e coinvolge le alte sfere vaticane, visto che il Cardinal Pell, australiano, è il numero 3 del Vaticano, di fatto. Pell in Australia per difendersi. Questo è il titolo dell'articolo di pagina 2 del Vaticanista Luigi Accattoli.